palla ovale. Di nuovo buon pomeriggio a tutti, anche per Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunta in regia. Nel GR prima, se avete sentito, ho tracciato un po' di temi di questo sabato molto intenso dal punto di vista sportivo. Presentazione del Giro d'Italia dei 100 anni, due medaglie d'argento nello sci, le conferenze stampa della vigilia del big match Juventus-Milan, ma anche Mourinho che al solito non ci ha fatto mancare i titoli, ha fatto mancare i titoli ai giornali di domani. Parleremo anche di Formula 1, insomma un sacco di temi condensati in un'ora da passare insieme, anche con voi se volete intervenire. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Però come abitudine e tradizione partiamo dal rugby. Oggi giornata di Coppe Europee con gli occhi puntati su una Challenge Cup che, a differenza dell'Heineken Cup, ci sta o ci stava regalando qualche soddisfazione in più. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. Ho apprezzato l'uso dell'imperfetto perché in Challenge, in questo turno delle Coppe Europee, che è il quarto, prima giornata di ritorno dei gironcini, finora sono arrivate due sconfitte. Preventivabile quella del Rovigo in Irlanda contro il Connacht, 30-3, più grave la sconfitta interna della Carrera Petrarca Padova oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio in casa, contro la selezione rumena del Bucarest. Il Petrarca, che aveva vinto 20-14 a Bucarest domenica scorsa, oggi ha perso 17-15 dopo essere stato in vantaggio anche 10-0, ed è una sconfitta che, se non pregiudica, sicuramente complica molto la strada del Petrarca, che lottava per arrivare secondo nel suo girone e cercare di strappare la qualificazione ai quarti. Qualificazione ai quarti che, lo ricordiamo, a nessuna squadra è mai riuscita, né nella Heineken Cup né nella Challenge. Beh, immagino amarezza, se non rabbia, nel clan Petrarca. Abbiamo in linea giusto il presidente del Petrarca Padova, Fulvio Lorigiola. Buonasera presidente. Buonasera. Quanto fa male questa sconfitta? Fa male soprattutto per come è maturata, perché di fatto quando si perde le ricriminazioni sono sempre tante, in particolare oggi, dove noi di fatto abbiamo regalato, mentre vincevamo 10-0, abbiamo regalato due mete al Bucarest, una per un intercetto mentre stavamo attaccando noi e poi su un errore difensivo abbastanza insolito, per cui siamo stati decisamente gli artefici del nostro negativo destino, e questo da molta più amarezza. Un conto è perdere una squadra più forte, un, certo, conto invece è regalare una partita. Certo, è chiaro, ma soprattutto quando c'è un risultato storico che sembrava a portata di mano, no? Un risultato che ci aveva quasi illuso che le nostre squadre più forti fossero comunque arrivate ad un livello paragonabile a squadre medie francesi o britanniche. Io devo dire che innanzitutto devo rendere onore a questo Bucarest, che ricordo non è una squadra di club ma è una selezione provinciale, sì, formata da tutte le squadre che giocano nella provincia di Bucarest, che prima che giocare bene con noi hanno giocato bene anche col Bourgoin, anche perché il Bourgoin, che diciamo è il nostro concorrente diretto per il passaggio al secondo posto, in Romania ha vinto di 8-9 punti, non è certamente una squadra materasso, e questa cosa ci complica un po' la vita. In ogni caso noi a questo punto siamo obbligati a giocarcela, come d'altra parte era già prima, in casa contro il Bourgoin, che è un'ottima squadra francese. E poi il problema vero è che mentre noi l'ultima di Coppa l'abbiamo a Worcester, il Bourgoin riceve il Bucarest, quindi a questo punto non lo so, insomma, ci siamo decisamente complicati la vita, e questo non fa certo bene, insomma. Giacomo, vuoi chiedere qualcosa al presidente? Ma abbiamo parlato anche della selezione rumena, e il discorso delle selezioni viene sempre a galla, naturalmente anche con Fulvio Lorigiola che ha le sue idee in proposito. Ecco, per quanto riguarda le selezioni, si è detto che se l'Italia decidesse di partecipare solo alla Heineken Cup con una o più selezioni, potrebbe trovare un'opposizione da parte della ERCA, che organizza questo torneo. Il precedente del Bucarest, sia pure in Challenge Cup, potrebbe dare all'Italia qualche chance in più, ammesso che si voglia provare a percorrere questa strada? Ma il problema vero è che le selezioni italiane, a differenza delle selezioni irlandesi o scozzesi, verrebbero costituite sostanzialmente come due, chiamiamole, nazionali in progress, pronte per i Sei Nazioni, ed è sostanzialmente questo che non viene visto di buon occhio dai componenti della ERC, perché un conto è l'Irlanda che partecipa alla Heineken Cup con tre squadre delle quattro province, ma queste province hanno 100 anni di storia, un conto è la costituzione di due selezioni apposite per la partecipazione, che ovviamente qui entra in gioco anche un po' la concorrenza, verrebbe vista come una presenza scomoda rispetto a quella che c'è adesso, dove oggettivamente le squadre italiane purtroppo, soprattutto in Heineken, fanno molta fatica. Presidente, ma il suo pensiero sull'evoluzione che è stata tracciata o che verrà tracciata a 19 del Consiglio federale da Presidente Dondi, lei da che parte sta, come si colloca in questo discorso? Qui ci sono due prospettive completamente diverse. La prima è quella di dare una risposta immediata, e la risposta immediata non può altro che essere quella della costituzione di due squadre, sì, che a questo punto diventano dei super club, che saranno chiaramente più forti di quanto i club italiani in questo momento possono essere messi in campo. L'altra alternativa, che presuppone però molta più pazienza e molti più investimenti, diciamo, sulla base, è continuare a investire su questo benedetto campionato, che per carità non sarà la competizione più spettacolare del mondo, però in 4 anni comunque una crescita l'ha avuta. Il problema vero è che il rugby corre e forse aspettare non è la cosa migliore, per cui c'è fame di risultati. Noi oggi come oggi sfruttiamo un trend anche di immagine molto positivo, però poi se non ci sono i risultati, bravissimo, questo trend rischia di essere perso. Bravissimo, parole di grande saggezza quelle del presidente del Petrarca Padova, vero Giacomo? Sì, sicuramente sul fatto che qualcosa deve cambiare credo che siano d'accordo tutti, sì, e probabilmente è il minimo denominatore su cui si sono trovati i club e la federazione in questa riunione che c'è stata in settimana e che a quanto pare è stata interlocutoria. Sono state messe sul tappeto varie possibili soluzioni, non se n'è trovata una del tutto condivisa, e adesso bisogna aspettare il Consiglio federale di venerdì, che naturalmente prenderà decisioni legate, io penso, anche alle opinioni dei club. Certo. Oltre un certo limite non, naturalmente non si può andare contro le opinioni dei club, e vedremo che cosa scaturirà da questa riunione, certo, del Consiglio federale. Sicuramente se i test match di novembre che sono andati male per gli azzurri a qualcosa sono serviti, forse proprio a questo, a far suonare un campanello d'allarme che più forte del solito, e quindi a far capire che bisogna trovare o provare altre soluzioni. Campanello d'allarme che, a quanto pare, anche sentendo il presidente Petrarca Padova, i club hanno sentito e sono sensibili all'argomento, e questo è già di grande importanza. L'appuntamento per parlare di questo Consiglio federale di venerdì è naturalmente sabato prossimo alle ore 17 con Pallovale qui da noi. Grazie a Giacomo Bagnasco, al presidente del Petrarca Padova Fulvio Lorigiola. Palla ovale. Ci collegheremo anche con Venezia, dove è nato il Giro d'Italia del centenario, 3.395 chilometri e mezzo. Ivan Basso dice percorso duro ma bello, tra poco ne cominciamo a parlare con Pier Augusto Staggi, che è lì a Venezia alla presentazione di questo giro che, come sapete, nasce tra le gondole e andrà a chiudersi dopo molti anni sotto il Colosseo, dunque non come tradizione a Milano ma nella capitale. Però prima di tutto questo, io vorrei, intanto che la neve è ancora calda, insomma, i risultati sono stati stampati solo all'ora di pranzo, vorrei parlarne subito con Dario Puppo, quelli dello sci che ci regalano due medaglie d'argento, dicevo prima, con Manuela Mölg sulla pista inedita di Molina in Spagna, invece su una pista storica come quella di Val d'Isère, Max Blardone secondo, dietro la stella che nasce, cioè lo svizzero Carlo Janka. Curioso di sentire le impressioni di Dario Puppo. Ciao Dario. Ciao Carlo. Un saluto a tutti quanti. Io a Solden prima della telecronaca, insomma, avevo letto nell'estate, anche nei giorni prima della prima gara in Austria, che effettivamente questo Carlo Janka stava facendo tempi molto simili a Albrecht e superiori a Berthaud in gigante, che è la sua disciplina di partenza, diciamo così. Poi è arrivato questo podio a Lake Louise. Lui sul suo blog aveva scritto, partendo per la trasferta nordamericana, spero di tornare con 150 punti, missione compiuta. Arriva a Val d'Isère, pista storica soprattutto perché è la più difficile al mondo praticamente, soprattutto è una pista difficile per tutte le discipline che ospiterà ai mondiali, dallo slalom alla discesa, e ha vinto, tra l'altro non facile perché la seconda manche era molto complicata da un fondo che non permetteva di fare dei tempi se non eri tra i primi a uscire dal cancello di partenza, quindi bravo lui, ma bravi gli italiani che oggi hanno portato a casa altri due podi. Peccato per Manfred, perché aspettavamo un doppio podio in famiglia. Ma dopo la prima manche era primo, ha fatto una prima manche strepitosa, poi soltanto sesto, una seconda deludente, onestamente. È vero, purtroppo non era facile scendere in quel momento quando è sceso Manfred con la pista molto segnata. In tanti, insomma, dicevano anche insomma durante la telecronaca che ma perché invertire i 30 non i 15? È vero, però comunque sarebbe stato difficile lo stesso effettivamente. Manfred, penso che la gara che tu e tutti gli appassionati di sport invernali si aspettano la possa fare domani, perché il terreno magari non è quello su cui sono abituati ad allenarsi gli italiani, cioè un fondo più compatto, perché con tutta questa neve che è arrivata chiaramente prepararla la pista e il fondo non è stato facile. Domani in slalom però penso che Manfred potrà prendersi quel podio che non è arrivato oggi. Emanuela? Manuela, che sfortuna. Io quando vedo pochi centesimi, a me viene in mente la gara della Idem della canoa, sì, insomma, 4 centesimi, due centesimi fanno male. Sì, due centesimi, scusa, ho raddoppiato il distacco su Tanja Putiainen. Che è scesa benissimo la seconda manche. Denis Carbon era già uscita, sempre nella seconda manche era caduta, e poi Manuela, che ho avuto l'impressione, ma qui senz'altro saprai correggermi se sbaglio, ha avuto una fase centrale di seconda manche in cui forse poteva conquistare una vittoria, quei due centesimi, è chiaro che sono dettagli, però quei due centesimi forse li ha persi lì. Col senno di poi è verissimo, Carlo. Lì avrebbe potuto raccogliere quella vittoria che ancora le manca, però intanto è arrivato il podio, insomma, nella specialità in cui ancora le mancava, perché l'aveva già fatto in slalom, per cui sono tutti e due i Mölge in una situazione piuttosto simile. È vero che Manfred ha vinto una coppa di specialità con grande regolarità lo scorso anno, però in gigante per esempio Manfred sì, un podio l'ha raccolto, però è sempre stato più regolare in slalom. Avere due discipline in cui puoi essere da primi cinque potenziali in tutte le gare fa tanto bene. Poi soprattutto Manfred, se non sta producendo i risultati che invece arrivano dalla sorella, è perché si sta dedicando anche alle altre discipline. Io vorrei anche sottolineare il risultato di Blardone, perché ha cambiato i materiali come Manfred, forse stava facendo un po' più fatica rispetto al compagno di squadra. Questo è un podio che serve tanto per la prossima settimana, quando ci sarà la gara domenica in Alta Badia. Domani slalom al femminile, poche chance al di là di Nicole Jus. Al maschile invece, insomma, c'è Rock che si è preparato per questa gara, soprattutto è molto curioso di vedere quello che ne uscirà. Abbiamo visto, sarà molto importante vedere come tracceranno le manche, perché oggi la prima manche soprattutto di gigante sembrava di essere tornata indietro di 20 anni, non si vedevano dei gesti così costretti tra virgolette da tanto tempo. Domani Rocca secondo me può fare una bella gara, e la rabbia che oggi aveva Manfred scaricato dopo la prima manche, quando ha urlato come dire dai che adesso ci siamo, domani spero la possa esplodere tutta. Grazie Dario, ci sentiamo domani. Grazie a te, un saluto a tutti. Grazie Dario Pupo, ma non abbiamo finito di parlare di sci, perché abbiamo intervistato meno di mezz'ora fa proprio Max Blardone, oggi secondo appunto in Val d'Isère, dietro Carlo Janka. Lo ha chiamato Paolo Scandale, lo sentiamo. Massimiliano Blardone, innanzitutto le sensazioni dopo il grande risultato di oggi? Ma una buona sensazione, ho fatto una bella gara, una gara molto difficile, dove bisognava ragionare molto, e oggi sono riuscito comunque a gestire bene le situazioni, ogni parte della pista, è stato molto importante questo risultato per me, perché riuscire a fare un altro podio con una situazione diversa di materiali penso sia un grosso valore personale e un'immensa soddisfazione. Parlaci un po' di questa pista, com'è ottenere un risultato qui a Val d'Isère dove vincono solo le grandi? Ma è una pista molto difficile, perché comunque è una pista nuova dei mondiali, dove comunque ci saranno i campionati del mondo fra pochi mesi. E quindi niente, bisogna comunque essere consapevoli di aver fatto una bella gara e tornare ai mondiali cercando di esprimersi al meglio e cercando di andare forte. Una pista difficile, dove la tracciatura bisogna comunque modificarla completamente, radicalmente rispetto alle altre gare, perché comunque è una pista che fa molto dislivello e bisogna di conseguenza tracciare molto molto stretto per stare nei parametri obbligatori della FIS. Ciò comporta in una tracciatura di 22-24 metri, che solitamente nelle nostre gare di Coppa del Mondo sono dai 28 ai 31, quindi potete capire che la situazione è totalmente diversa e gli adattamenti sono totalmente differenti del solito. Oggi ha vinto Carlo Janka, questo giovane astronascente della specialità. Innanzitutto, sì, Non era battibile oggi e sarà un avversario importante per questa stagione di Coppa del Mondo per te? Ma diciamo che più che altro è un giovane molto forte, si è già rivelato forte in America e oggi ha confermato comunque un ottimo stato di forma, e perché partendo appunto con un numero piuttosto, diciamo tra virgolette, alto rispetto a noi, ha fatto una grande prima manche arrivando al quarto posto. E nella seconda manche sapevo benissimo che era uno dei pretendenti alla vittoria e ha fatto una grande gara. E io purtroppo ho perso molto nelle prime 10 porte, perché ho avuto un piccolo sbandamento e mi ha compromesso un po' la gara, però comunque ho cercato di recuperare nella parte finale, ce l'ho fatta e sono soddisfatto. Grande Max Blardone oggi e speriamo anche in un prossimo futuro, con gli occhi puntati su questo Carlo Janka che sembra davvero fortissimo. Palla ovale. Pallovale sì, ma anche biciclette, perché il Giro d'Italia dei 100 anni è appena nato e allora noi andiamo subito dalla nostra voce del ciclismo, cioè Piero Augusto Stagi. Buonasera Piero Augusto. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Dici tutto, com'è il Giro d'Italia? Ma è un Giro d'Italia molto bello, difficile, sorprendente per certi versi, per la sua originalità toglie dei punti di riferimento ai corridori. È un Giro d'Italia che dovrà essere studiato molto bene, di sicuro non potrà essere sottovalutato sin dalle prime tappe, perché si parte subito col botto, una cronosquadra a Lido di Venezia e poi le Dolomiti, anche se sono Dolomiti dolci, come le ha definite il direttore del Giro d'Italia Angelo Zomenian, però dopo 4-5 tappe già trovarsi sulle Dolomiti non è come dirlo. Il problema è che è un Giro d'Italia del centenario e che quindi è un Giro d'Italia delle celebrazioni, che celebra la corsa e l'Italia stessa, che celebra le tappe epiche, che celebra le montagne. In realtà si celebra molto poco, è un giro che vuole festeggiare 100 anni ma che si allontana e si discosta dalla storia, per sì, certi versi la calpesta, un po' la mortifica, cioè i grandi monumenti naturali che sono lo Stelvio, le Tre Cime di Lavaredo, la Marmolada, il Passo del Gavia, il Mortirolo, ho detto delle montagne che sono a tutti gli effetti monumenti naturali e ciclistici, dove i ciclisti in 92 edizioni, perché la prossima sarà la 92esima, ma in 100 anni di storia hanno veramente costruito e scritto pagine epiche di sport, non ci sarà nessuna di queste montagne. La cima Coppi sarà l'Isoar, quindi sì, una cima all'estero. Francese, esatto. Questo, una questo cima un po' francese da per celebrare il Giro d'Italia. Per quello ti posso dire una cosa, la bici del centenario del Giro d'Italia, quindi parliamo di marketing, però il fabbricante americano, la diciamo tutte, pensare che le bici italiane sono il non plus ultra nel mondo, sì. Ci sarebbe da che ridire. Io dico solo che questo sarebbe un giro, ed è un giro molto bello, perché toglie punti di riferimento, lo spartito è stato capovolto, però sarebbe bello se fosse l'edizione numero 99 o 101, sì. Ho da ridire, da dissentire per l'edizione numero 100. Sì. Troppo originale per essere celebrativo, insomma. D'altra parte, i 100 anni non ho deciso io di celebrarli, hanno deciso di celebrarli loro. Quindi, i 100 anni, uno, certo, c'è la Cuneo Pinerolo, okay, che tra l'altro quasi stride, quasi dà fastidio, perché all'interno di questo spartito c'è una tappa storica da leggenda, quella dei Cinque Colli, quella della fuga di 200 e passa chilometri di Fausto Coppi. Però quasi dice, ma che pro, parte da Venezia, perché Venezia ha un sindaco che è innamorato della bicicletta, e per questo noi lo ringraziamo. Il sindaco Massimo Cacciari ha avuto grande sensibilità. Però il giro nasce a Milano. Il 13 maggio 1909 partirono una ventina di pazzi scatenati al chiaror di torce alle 3 di notte da Piazzale Loreto, fu il via, e per tanti anni ci fu l'arrivo. Dal 90 l'arrivo era una cosa ormai consolidata, e in questo Giro d'Italia invece Milano ce l'avrà solo proprio come comparsa, un girettino in città, 17 maggio, domenica, 150 chilometri pianeggianti per un arrivo per velocisti. Mi sembra un po' poco per la città che ha dato i natali, sì, a questa corsa, che non ha avuto né la presentazione, perché siamo qua alla Fenice di Venezia, che peraltro è stupenda, certo, non si può dire nulla, però non c'è né la partenza né l'arrivo, c'è troppo poco. E poi che si concluderà a Roma. Roma ha avuto due arrivi del Giro d'Italia, nel 1911 e nel 1951. Adesso ci avrà questo gran finale ai Fori Imperiali, un cronometro individuale di 15 km e 300 metri, però sappiamo anche che Roma ciclisticamente è poca cosa, con tutto, sì, il rispetto, non è... Sì, dal punto di vista storico, no, detto questo si poteva aspettare, visto che si è aspettato così tanto tempo, sappiamo fino al 2011, perfettamente, no? Che ci... Sappiamo perfettamente che ci diranno che logicamente il Giro d'Italia festeggia 100 anni, e quindi c'è la capitale, sì, la che città eterna, festeggia, sì, la città eterna. Tra l'altro, a livello nel, se è vero come è vero, diciamo anche tutte le cose buone, ma tra l'altro le cose buone ci sono, perché in ogni caso Angelo Zomenian questo Giro d'Italia lo sta togliendo da una posizione di corsa impolverata, e in 3 anni veramente l'ha rivoltata come un, sì, calzino, sì. E bisogna dire che ne fa discutere, e anche questa edizione ha trovato in qualunque caso farà parlare, farà discutere, si tornerà a parlare di ciclismo, si tornerà a parlare di atleti che non si guardano bene, e di queste ore ad esempio la posizione di Damiano Cunego e Alessandro Ballan, più Cunego che Ballan, ma in ogni caso una posizione della Lampre, la squadra di Beppe Saronni, che oggi ha mandato solo Marzio Bruseghin. Loro in maniera un po' furbesca hanno detto Marzio Bruseghin è arrivato terzo al Giro d'Italia, è giusto che abbia lui gli onori della scena, sì. Ma la verità è che non hanno assolutamente gradito in questo mese e mezzo, da quando c'è stato l'annuncio della partecipazione di Lance Armstrong, che torna alle competizioni e per la prima volta correrà il Giro d'Italia, non hanno gradito le paginate fatte al texano che torna alle competizioni, e anche al suo probabilissimo rivale, che è l'amico nemico Ivan Basso. E allora non lo dicono, ma lo fanno capire, dicono benissimo, avete già i due grandi contendenti della maglia rosa griffata, Dolce e Gabbana, e correttevi voi il giro. Sì, vabbè, poi però forse non sarà così, ma in ogni caso... Però anche un po' di tolleranza ci vuole, perché tu mi insegni che non si poteva non parlare per pagine di Lance Armstrong, che peraltro viene al giro dopo un sacco di tentativi falliti. Ma io questo lo dico sotto l'aspetto positivo, Carlo. Sì. Io questo lo leggo... sono felice e spero di continuare a parlare di queste beghe di... veramente con dominio, perché da tanti anni non lo facciamo più. È bello poter parlare di Cunego che è arrabbiato, sì, perché ha poca attenzione, e invece di altre cose, no? Di cose più pesanti, sappiamo a che cosa, certo, mi riferisco. No, ma naturalmente. Se noi parliamo di corsa, di corridori che hanno voglia di mettersi la pompa tra i raggi, e invece sono cose che possono semplicemente riaccendere la passione per questo sport, che in realtà di grande passione l'ha sempre avuta e ce l'ha. E anzi, altra notizia, in questo Giro d'Italia c'è un cast eccezionale, no? Armstrong e Basso l'abbiamo detto, poi ci saranno di sicuro Di Luca, Simoni, Pellizzotti, Nibali, il russo Denis Menchov che è arrivato quinto al Tour, ci sarà Carlos Sastro, lo spagnolo che il Tour de France l'ha vinto. Dovrebbe mancare solo Alberto Contador, che il Giro d'Italia l'ha vinto quest'anno, ma che il prossimo anno a tutti gli effetti vuol solo puntare a vincere il suo secondo tour, certo. Però dall'Australia rimbalza una notizia: Cadel Evans, secondo due volte al Tour de France, e che ha dichiarato apertamente il tour è il mio grande e primo obiettivo, doveva fare il Giro d'Italia, invece adesso sembra che questa certezza non ci sia più. Anzi, lui ha dichiarato già in due siti australiani che al Giro non ci verrà. La squadra un po' imbarazzata, la Silence Lotto, una squadra belga che annovera questo corridore d'oro australiano, e tra l'altro è rappresentata qua alla Fenice da il direttore sportivo Roberto Damiani, italianissimo, nonché allenatore di Cadel Evans, che dice: ma no, non è vero, adesso quando tornerà dall'Australia ci rimetteremo a tavolino e dovremo guardarci negli occhi. Io penso che alla fine riusciremo a portarlo anche al Giro d'Italia. In realtà, diciamo, c'è qualcosa sta scricchiolando, ma comunque sì, sono dettagli. Se verrà a mancare Cunego, verrà a mancare Cadel Evans, in ogni caso c'è un cast di primo livello. Dispiace soprattutto per Cunego, ma sopravviveremo, insomma. Mi auguro che Damiano Cunego si presenti lì bello come sarà la partenza di Venezia tra le gondole e corra il suo Giro d'Italia, perché pure per un corridore io credo che a un Giro d'Italia come questo, proprio per il cast, non si possa mancare. Cioè, io fossi un corridore con un Giro d'Italia del centenario e va bene, strano finché vuoi, però con un cast di questo tipo io vorrei esserci. Poi non so loro signori, ma lo scopriremo nei prossimi giorni e mesi, insomma. Grazie Pier Augusto, buona continuazione. Grazie a voi. Grazie a Pier Augusto Stagi. Di questo giro ovviamente parleremo a lungo, prima, durante e dopo, con Pier Augusto Stagi. Però Giro d'Italia dei 100 anni un po' rivoluzionario, adesso andiamo invece sempre velocemente, oggi della velocità, dallo sci alle biciclette alle macchine, perché la rivoluzione in Formula 1. Si legge oggi da tutte le parti Formula 1 low cost. Avevamo un appuntamento già da una settimana con Mario Poltronieri. Buonasera Mario. Buonasera, saluti a tutti, ciao Carlo. Adesso le nuove norme sono nero su bianco, insomma. Dall'anno prossimo si comincia, motore unico, idea accantonata, bocciata, respinta con perdite, no? Quella di Max Mosley. Adesso motori che devono avere vita più lunga, costi decisamente tagliati e poi vediamo. Beh, ti dirò che tutto sommato io sono, mi permetto di fare un discorso di carattere personale, sono contento perché è un indirizzo nel discorso finale del comunicato del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell'Automobile, che come federazione si deve occupare non solo di macchine di corsa ma anche di prodotto di serie. L'obiettivo finale è fornire contributo reale alla tecnologia da trasferire in veicoli stradali. Tu sai che è sempre stato il mio pallino. Sì, sì, questo sì. Effettivamente va in quella direzione, anche se in realtà l'unico particolare di ricerca nuovo sarebbe il famoso KERS, che in effetti è piuttosto complesso, si vede che problemi che hanno, quindi metterlo facoltativo è necessario, perché purtroppo la BMW l'ha già sviluppato molto, quindi anche se ancora molti problemi si opponeva, però effettivamente poi nel successivo anno, cioè nel 2010, ci sarà magari un modello unico studiato d'accordo con i costruttori. E direi che sono soluzioni che effettivamente riducono e incidono fortemente sui costi, perché eliminare tutte le prove fra un gran premio e l'altro vuol già dire risparmiare moltissimo. Certo. E sarà un problema ovviamente per molti tecnici che si dovranno riciclare. Certo, molti tecnici, oggi, molti meccanici, perché adesso c'erano due squadre, una che andava a fare le prove e l'altra che andava a fare le corse. Le prove sono state praticamente cancellate, dal via della stagione si potrà usare solo il venerdì. per sviluppare ogni tipo di soluzione. Questo è importante. E certo, tenendo presente poi che anche riducendo di 1000 giri il ritmo massimo dei motori, cioè da 19.000 scendendo a 18.000, il numero di motori, che tra l'altro è stato ridotto perché deve essere 8 al massimo per ciascun pilota, 20 complessivamente per la squadra, consentirà ovviamente di reggere quel ritmo che dovrebbe essere, come dicono loro all'inizio del comunicato, di almeno 3 gran premi. In realtà il comunicato ufficiale dice che la durata dei motori deve essere raddoppiata, quindi si passerebbe da 2 a 4. Lì bisognerà vedere poi in realtà per che motivo hanno messo questa ambiguità, se così si può dire. Però la sostanza è che il motore almeno 3 gare deve farle. Io penso che tutto questo ci ha fatto però dimenticare che abbiamo già un grande passo avanti, che è quello del regolamento tecnico, che ha modificato sostanzialmente le vetture, ha pulito le fiancate da tutti quegli spoilerini e sì, altre certo. Barrette aerodinamiche, ha allargato fino alla larghezza delle ruote anteriori l'alettone anteriore, ha ridotto di dimensioni il posteriore. Questo dovrebbe ridurre l'effetto scia e quindi consentire un più facile avvicinamento alla vettura che si vorrebbe superare. Sì, quindi macchine più semplici e più umane, voglio di dire. Dimmi. No, dicevo, voglio dire macchine più semplici e più umane. Più... Beh, sicuramente, ma guarda, sì. A parte il fatto che non è stata solo una vittoria quella dei team nei confronti di Ecclestone sul motore unico, perché Ecclestone per primo sapeva che un motore unico voleva dire tornare agli anni 60, sì, dove sì. Peraltro, faccio un inciso tecnico, l'otto cilindri Cosworth molte volte ha battuto macchine con motore plurifrazionato. Certo, però quindi, si torna troppo indietro, Mario, è sempre un pessimo segnale, infatti, no? Infatti, no, soprattutto siccome si consentiva anche di fare il motore rispettando certe caratteristiche anche alla casa, purché rispettasse quei dati generali, ma qui si andava puro contro lo sviluppo, tant'è vero che per il 2013 si prevede addirittura di studiare un nuovo motore sempre in funzione del risparmio energetico e di tutte quelle altre soluzioni che appunto in un momento poi, come sappiamo, è criticissimo per l'industria dell'automobile, possono effettivamente essere utili. Io penso che nel corso del 2009 si capirà molto di più di quello che è il futuro dell'automobile di serie, e quindi anche la Formula 1 fra il 2010, 11, 12 e diciamo fino al 15 potrà adeguarsi, ritornando appunto a quella che era la filosofia di partenza. Mario, ti ringrazio. Prego, a te, ci risentiamo. Ci risentiamo naturalmente, perché qui è ancora tutto in divenire. Queste sono le regole, poi vediamo, andremo a parlare delle interpretazioni che verranno date. Grazie a Mario Poltronieri. Palla ovale. È una notizia un po' triste, un po' squallida, che riguarda di sfuggiti in maniera ancora tutta da chiarire Adriano. Tra l'altro oggi ne ha parlato Mourinho, del giocatore, lo ha difeso e ha avuto invece parole molto, molto dure nei confronti di Mihajlovic, che sapete qual è stata la sua reazione di ieri. Adesso avete capito, diceva Mihajlovic, perché io e Mancini lo tenevamo un po' in disparte, perché non siamo mai riusciti ad integrarlo nel gruppo. Oggi Mourinho ha difeso il suo attaccante, certo è che se ne notizie. Poi anche qui vediamo gli sviluppi, sono queste. È questa, ci sarebbe anche il nome di Adriano tra i frequentatori di un locale di lap dance di Vicenza, chiuso l'altra notte dai carabinieri perché nascondeva un giro di prostituzione. Insomma, sarebbe una ragazza che lo avrebbe riconosciuto come frequentatore di questo locale. Insomma, tutte cose che lascio lì, poi se volete le leggete domani sui giornali con tutti gli approfondimenti e le chiacchiere del caso. Ve la do per dovere di cronaca, così come per dovere di cronaca vado innanzitutto su Juventus-Milan e sulla vigilia di Juventus-Milan, perché c'è una sicura assenza, e questa è importante, è quella di Camoranesi, che non sarà della partita nemmeno in panchina, ha i soliti problemi e dunque Ranieri non lo porta. Però l'altra assenza, imprevista fino a qualche ora fa, ma che potrebbe concretizzarsi, è quella ben più pesante, secondo me, di Kakà, che ha problemi inguinali Non si è allenato ieri, Ancelotti ha lasciato tutti i dubbi del caso dicendo partirà per Torino, poi vediamo. Oggi in realtà Kakà si è allenato e quindi secondo me giocherà, poi domani al momento della lettura delle formazioni vediamo. Ma intanto Ranieri sul big match di domani. È importante avere continuità. Se tra le continuità ci sono alcune classiche che vanno vinte, beh, è importante, sì, ci manca. Ci sono giocatori che da soli valgono il prezzo del biglietto. Ronaldinho è uno di questi. È capace di magie, è capace di cose che illuminano le notti. E poi starà a noi cercare di spegnerlo. Il Milan non ha soltanto lui, ha diversi campioni, per cui dovremo andare a spegnere la luce al generatore, come si dice, alla centrale proprio. Non dimentichiamo, perché poi nel calcio si dimentica sempre tutto, non dimentichiamo che il Milan è campione del mondo per club, per cui domani andremo a affrontare una squadra con la S maiuscola. Con l'Inter è ugualmente importante, sono le due pretendenti allo scudetto, per cui far bene contro il Milan significa molto, anche se non vuol dire nulla. Certo che ci farebbe molto piacere, ci permetterebbe di guadagnare 3 punti sopra il Milan e restare alla stessa distanza dell'Inter. Per il solo fatto che già stiamo tutte e due là dietro, significa che tutte e due sono delle anti-Inter. Se restassimo soltanto noi sarebbe un guaio, sarebbe più bello se ci fossero altre squadre anti-Inter. Significherebbe un campionato ancora più interessante, per cui non è sbagliato quello che si dice nel mondo. Magari poi domani sera ci ritroviamo con un pareggio e quindi l'anti-Inter diventa nessuna di loro, nella Juventus, nel Milan, perché domani insomma l'Inter gioca con il Chievo, poi si mette alla finestra, speri in un bel pareggione e scappa ancora più lontano, forse presto per dire irraggiungibile, però quasi. Quello che abbiamo sentito era Ranieri, ma adesso ci trasferiamo dall'altra parte, arriviamo a Milano e sentiamo Carlo Ancelotti. No, è un'attesa, una vigilia che mi piace vivere, perché sono vigilie importanti, sono partite importanti, sono avvenimenti importanti, e quindi diciamo siamo felici di vivere queste sensazioni. D'altronde che sono le stesse sensazioni di partite di alto livello, insomma, quando c'è una posta in palio importante, per cui si vivono le stesse sensazioni della partita che abbiamo giocato quest'anno contro l'Inter. Personalmente la Juve è sempre stata, diciamo, l'avversario principale, la squadra da battere, lo è stata ai tempi quando giocava alla Roma, quando giocava al Milan, la squadra che ha una grande storia, una grande tradizione, una grande tifoseria e dei grandi campioni in questo momento. Penso che l'Inter domani ha un turno più agevole rispetto a noi, e quindi può darsi che il distacco possa essere per una delle due possa aumentare. Non credo che sarà determinante, perché c'è ancora tanta strada da fare per arrivare in fondo, però certamente da un punto di vista di morale, di convinzione, credo che una vittoria può, diciamo, dare slancio. Questo era Carlo Ancelotti. Io intanto stavo dando un'occhiata alla Serie B e abbiamo parlato di un Giro d'Italia rivoluzionario nel disegno della rivoluzione in Formula 1. Nel suo piccolo, anche in B, oggi si sta configurando una giornata da rivolta dei peones, o meglio di una giornata nella quale tutte le prime della classe stanno perdendo. Sta perdendo l'Empoli, sta perdendo Grosseto in casa, sta perdendo il Parma, sta perdendo il Brescia, sta pareggiando il Livorno, ma tra poco vi do i risultati che stanno per diventare finali e definitivi e vi leggo la classifica. Prima rimaniamo in casa Milan e sentiamo cosa ha detto Ancelotti su Kakà. L'allenamento di ieri ha detto che Pirlo sta bene, che Ambrosini sta bene, hanno lavorato tutta la settimana. I giocatori che non hanno lavorato tutta la settimana sono stati Seedorf, che però ieri ha fatto un ottimo allenamento, Ronaldinho, che ieri ha fatto un allenamento più controllato, e Kakà, che ieri non ha fatto l'allenamento. Quindi i dubbi sono legati soprattutto al recupero di Kakà. Gli altri due, Seedorf penso che è in ottima condizione, e Ronaldinho anche. Comunque domani partirà con la squadra e domani vedremo. Ha un problema, diciamo, al pube, inguinale. guarda, i problemi inguinali di Kakà esistono, ma come vi ho detto, oggi si è allenato con il resto della squadra, domani partirà per Torino con tutti i punti interrogativi che volete, ma difficile che non lo si veda in campo per una partita che vale molto, in tutta onestà, anche se siamo soltanto a dicembre. Adesso andiamo all'Inter per sentire innanzitutto la replica di Mourinho alle parole di Mihajlovic. Insomma, oggi non poteva Mourinho non entrare, quasi chiamato ieri dal suo presidente, ha detto vi spiegherà tutto lui su Adriano, non c'è nessun problema, infortunato, c'è questo infortunio, Mourinho ha avvallato questa tesi, ha spiegato anche i tempi in cui si è manifestato questo infortunio, ha insomma sciolto i nodi, almeno ufficialmente, questa è la voce ovviamente della società, sull'allenamento del giovedì qui Adriano si è presentato in tempi regolari ma in condizioni che gli hanno impedito di svolgere l'allenamento. Ma sentiamo Mourinho sul suo centravanti. Che è vero è che l'allenatore in seconda dell'Inter è Baresi, ma Sinisa parla più dell'Inter che Baresi. Sembra che lui è ancora qua, sembra che lui è ancora allenatore in seconda e non è così. E penso che l'Inter, io sono qua da 5-6 mesi, no? Ma conosco un po' la storia e ho già capito che l'Inter è, dal punto di vista umano, un club eccezionale. In quello che riguarda Adriano, io penso che tutti meritano una seconda opportunità. E se lui ha sbagliato negli altri anni con Roberto, non vedo ragione perché questo club non ha deciso di dare a Adriano una seconda possibilità. Quando questo club qualche anno fa ha dato a un giocatore che ha sputato in faccia ad un altro la possibilità di diventare suo allenatore, per che ragione questo club non deve dare a un giocatore che ha sbagliato l'opportunità di giocare di nuovo? Perché no? Quello che ha sputato in faccia, se ve lo ricordate, era proprio Mihajlovic, a cui Mourinho ha risposto senza troppi complimenti, ed era e la vittima, il bersaglio di quello sputo era Adrian Mutu. Comunque queste le voci della vigilia, adesso invece vi do per chiudere il programma i risultati finali della 18ª di Serie B che, come anticipato, sono un po' rivoluzionari per la testa della classifica. Ascoli batte Empoli 1-0, gol di Bellingheri, quindi il Rimini che vince 3-1 a Grosseto con doppietta di Vantaggiato. Il Pisa che in rimonta batte 2-1 il Parma, dopo Lucarelli su rigore segnano Braiati e Joelson, quindi Cittadella batte Brescia 2-0 Meggiorini e Carteri. Avellino Salernitana 1-1, Bari batte Piacenza 1-0 gol di Camatta, quindi il Mantova vinceva 2-0, Tarana e Rizzi si è fatto rimontare dal Modena, finisce 2-2, doppietta di Bruno per i modenesi. Triestina Livorno 1-1, dopo Diamanti segna Minelli, quindi Vicenza 1 Treviso 1. Ieri si è giocata al Binoleffe Frosinone 2-2, il Sassuolo deve ancora giocare, giocherà domani alle 20:45. La classifica dice Empoli 31, Sassuolo, Livorno e Parma 29 insieme al Grosseto e al Brescia, quindi grande ammucchiata qua da 29. Triestina, Bari 28, Vicenza 27, Pisa e Albinoleffe 26, Mantova 24, Rimini 22, Frosinone 21, Ancona, Cittadella e Salernitana 20, Piacenza Avellino 17, Treviso, Modena e Ascoli 15 punti. Questa è la classifica dopo il 18esimo turno e in attesa appunto del Sassuolo. Ci fermiamo qui, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunta in regia. Torniamo domani pomeriggio dalle 17 alle 19, tanto per cominciare con la Tempo di Sport e poi ovviamente con il basket dopo il giro delle 20, domani sera dalle 22 alle 23 e a farci compagnia sarà niente meno che Juventus Milan. A domani!